Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Eccolo! Chi è? Avanti su 10, chi è? Buonasera! Sì, di buon'ora! Ma buon'ora, allora! Ero mezz'ora, già vendi, non vedo nessuno. Gianni, tutti qua ti so. E tu dove vedi? In chiesa, c'era la messa delle... della madre del mio genero. Ah, vabbè. Sono le 7:30, meno 25, da 10 minuti possiamo stare, perché poi devi fare la terapia tu. Allora, ma dopo devi andare a fare la grande terapia. E tu devi scendere il cane. Andiamo, andiamo, cacca. Dare in testa. E vabbè, andiamo. Vabbè, ti andiamo, andiamo. Ebbene, gentaglia. Ebbene, gente mala. Ciao già, ciao attore. Sono freddo oggi, Ero poco fa accompagna questa mia amica, doveva consegnare una macchina, poi l'ha accompagnata a Sorso. E poi siamo andati a Senno, a prendere un caffè. Cazzo, un freddo micidiale. E chi mi tocca di più tocca? C'è vento. Anche il vento c'è, sì. E ogni tanto cambia, ogni tanto c'è il sole, non si ne comprende nulla. Stamattina ho visto che c'era umidità, forse ha piovuto stanotte. Sì, entro di notte ha piovuto. Angelino di Alghero, ho sentito la vete che ha piazzato tutto quanto, mi ha scritto, che ha piazzato tutto. Oh, stasera l'ho sentito. Hai detto già? Ho detto che Angelino di Alghero si è ripiazzato tutto. Io non l'ho sentito, boh. Ma adesso lo senti perché c'ha lineare anche grosso. Cioè si fa sentire. Io lo sentivo ieri, avantieri, Santiago 5, la radio 4, dai, però cioè, se c'era QRM lo copriva. Con lineare grosso lo sento, lo copriva pure il QRM. Boh, boh. No! Il giorno che l'ho sentito io non ne aveva lineare perché gli mancava lo spessore per farlo, per metterlo. E doveva farlo lo spessore. Adesso ha fatto tutto, capito? Ma il spessore è grosso, mi vivo, di filo grosso, anche se no per i sciogli. E il giambo, cioè, giambo aristocrat. Giambo aristocrat, così. Aristocrat. Ah, giamba aristocrat, giusto? Giambo aristocrat, sì. 1600 e 1200 è mal laterale, mi pare. Sì. Ma da voi che non arrivi la bulletta. Oh, io, in una zona. Ma lui è in una zona... deve stare anche attento perché lì sono gli aerei che passano, lo sai di subire la rotta aerea. No, penso, le frequenze sono tutte diverse e non gli fa nulla. Lui abita proprio dove c'è l'aeroporto. No, abita quasi vicino all'aeroporto. Sì, l'aeroporto civile, sì. Niente, le muove andiamo allora. che colpo ha ancora dell'aereo. Adesso sta facendo sicurezza, lei, Luca, come vuole fare tu? Sicurezza, non so dove, però forse all'aeroporto, non lo so. Armata? No. Era portierato? Sì, sì. E ho capito, ho capito. Già, quello che voglio fare io, Purtroppo sono devastanti i turni, cazzo. Lo so, non regala niente a nessuno, ma ho capito. Devi avere appoggi per entrare lì, perché io l'ho fatta in tutti gli istituti e uno mi ha detto che al ritorno, che se non c'aveva appoggi, finiva il cestino. Beh, certo, io praticamente tramite, che me l'aveva fatto fare Carlo, il curriculum, tutto quanto, l'avevo spedito all'aeroporto di Alghero, ma mai mi ha chiamato. No. Magari non avevano bisogno nel momento, magari poi ne tengono conto, Ma comunque mi sa che quando ci prendono più il portavamo, se lo fanno fare loro. Lo so, ma bene, mi state ascoltando, sì? Sì. Tanto mi meno 20, va, tra un po' me ne vado a nana, perché domani mattina devo alzare presto. Oh, è casino, ma è più tosta, devo fare 2 ore in più. Sembra il parecchio che sta facendo. Si occupano a te già, sono autista. E vabbè, dai. È sempre un panificio lavoro, dai. Ti mani tutti gli uffici, già la giuvista. Che sta bobita, amico? Ma lo sai, Luca, che bobita? Che bobita, di cosa? Bene che mi è venuta a voi, sono andato a portare le gambe tutte finite. Abbiamo dovuto comprare il pasto perché non c'erano frittelle. Io le devo comprare domani, non alla manzano. Un poco. Vabbè. Intanto non mi va di me. Io lo vado a comprare perché c'è mio figlio, mio nipote, a pranzo. Qualche pezzo l'avrei assaggiato anch'io, dico la verità. Poi la glicemia. Lo so. Perché bisogna fare una volta alla settimana, si può fare, poi il resto della settimana Ramadan. Il lamme, certo. Oh, vabbè, io già sto viaggiando bene, quindi non è che ce l'ho tanta, che non me la controllo, mi domani me la devo controllare dopo pranzo. E poi la notte. Non lo devo controllare, sempre tutta dopo pranzo e dopo cena. Ok, dai, io vado che è già tardi, questo qui si sta lamentando, vuole scendere giù. Dai, ci sentiamo, ciao Luca, ciao Tore, ciao a tutti gli ascoltoni. Buona serata a tutti. Ok, già, ci risentiamo alle prossime, dai. Ci risentiamo, a presto. Avanti Lu! Via, ciao già, alla prossima. Mi chiuso pure nella sveglia io, pa' domani. Fai bene. Anche tu stai chiudendo? O ti seguo quelli? Senti che taccio, non tanto ad andare a letto. Se no domani manco la bucca mi ribesa. Adesso vado un po', vedo tutto il lavoro che c'è. Altro tipo di lavoro, capito? Infatti. No, io mi alzo la mattina, mi sto alzando molte volte alle 6:10, il vostro vibe, e poi alle 6:20 sto portando il cane giù, sto portando, e poi alle 8:10 sto accompagnando mio nipote a scuola. E vedi, purtroppo io invece mi alzo alle 3:30, 3:20, 3:30, inizio a fare colazione, poi mi lavo, poi porto il cane alle 4:10, così, e alle, come si dice, alle 4:30 mi siedo in macchina e inizio ad andare a al posto di lavoro, capito? Prima lo facevo tanti anni fa, a pigiamini alle 3:30 ci stavo uscendo e alle 4 prendevo servizio. Io il servizio lo prendo alle 5:20. Già va bene lo stesso, a voglia. Purtroppo chi si deve alzare presto per andare al lavoro è quello, di mancano poi va. Esatto, proprio così, è vero. Bisogna travagliato, dai, se no un casino. Ora la batteria me l'ha giovata, quindi va a toccare l'altra a falla. Piano piano, ed è così. Claudio! Amore, certo, ti ho sentito, vai a lavorare se non ci farò la pensione. Ciao Claudio! Purtroppo è così. sono non te la pagano. Oh, claro, qui sai che passo, unia di bisnacca sa due, unia di, unia santa di. Sia la nata che il ritorno, unia di. Ma il paramo non viene in zona, claro. Ma la tua sopra, claro. Come sta andando questa radio, che sono anni che non la uso, sempre la mia. Benissimo, stavo dicendo okay, che passo, ogni santo giorno vicino a casa tua, sia l'andata che il ritorno. E poi ti ho detto, ma viene il paramo in questa zona? No, non ce n'è, sulla strada che fai tu, su quella litorania già ce n'è, ma vicino a me no. La giunta ragazzi, mangiami un po' di... mi fa fanno una pasta. Oh, yeah. Beh, adesso devo vedere un po'. Adesso ho visto su... su Facebook questo tipo, non so di dove. Cazzo, mi sa ne aveva boh, tipo 50 mazzi. Tutti belli, tutti messi bene. Una tavolata. Minchia. Quindi mio si deve vendere, ci pure il mazzo. Perché li aveva fatti per venderli, capito? Senti Annali, devo capire un posto, devo sentire qualcuno che mi dica un posto così, io vado tranquillo e sereno, invece devo stare lì a girare e rigirare, capito? E poi qui dovevi andare, Buzzi lo erro, se tu conosci quella strada, una volta che esci da Buzzi ti fai a piedi, sia da una parte, soprattutto nel costone, della strada che va alla erro. Con me mi hanno portati un mio collega l'altro giorno, mi ha portato un 6-7 mazzetti, capito, li ha fatti tutti lì, come il mio ex collega che adesso non c'è più che è morto, io mi fermavo all'impianto di Buzzi e lui si faceva tutta la strada andando alla erro, capito, e poi quando finivo di fare i controlli all'impianto passavo a prenderlo, mi vendeva una cerca di ghisi in plastica. E vedi, così, ma mi stai ascoltando qua? 9:15 abbondante, radio Super 5. Yeah, yeah. Vabbè, anche tu stai arrivando bene, dai, non è male. Non sei il solito segnale tuo, famoso, ma vai bene, dai, abbastanza. Non so tu come ti ascolta, avanti tu. Santiago 8 e 9 l'ascolto, voglio dare un po' 8 e un po' 9. La radio è buonissima, quindi già ascolto bene. Raga, io sono a 6 km da Sassari, Sassari non lo vedo, perciò la torre è caduta, ma l'importante è che ogni tanto posso entrare a salutarvi, non sempre perché ho abbandonato la 27, la verità, l'antenna poi Luca, non ho più la Mantova io, anche se sembra una Mantova, ma non è una Mantova, è una multibanda quella, quindi non è antenna ideale per queste frequenze, però giusto per fare un saluto già va bene. Va bene, adesso vi salutate e mi ritiro per deliberare, perché me ne vado in cucina e mi guardo un telegiornale. Ciao Tore, ciao Luca, piacere avervi ascoltato. Luca, quando vuoi, mi fa colpo il telefono io la mattina. Esco presto, rientro presto, quindi quando tu stai rientrando, magari io sono già a casa, ci prendiamo il caffè, ok? E non c'è problema, là. Andà bene, dai, saluti a tutti qua. Ad Anna, la signorina. Anch'io con questo passaggio chiudo, perché vado a nanna, non subito però, inizio già a sistemarmi bene nella culla. Alla prossima, ciao, tu riprendi, ci sentiamo domani, ciao, ciao Cla. Ok, ci risentiamo alle prossime, ciao Claudio, ben sentito, alle prossime, ok. Luca, stammi bene, buon sonno e tutto. E anche ciao agli ascoltori. Ciao, ciao a tutti e due, un abbraccio, cari, grazie a parte di Anna di Maria, ciao ciao. Ehi, ciao.